mi piaceva. La stagione sonora del Binario 69 all'insegna della partecipazione e dell'accessibilità. Binario 69, via dei Carracci 69-7D a Bologna. Ingresso riservato ai tesserati AICS. Info sui nostri social. Manda un SMS al 45586 e ci aiuterai a realizzare un grande sogno, la terrazza dei bambini dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Uno spazio dove vivere momenti di spensieratezza, gioco e studio in compagnia di familiari e amici. Aiutaci a realizzare questo sogno, la terrazza dei bambini. Dona anche tu, manda un SMS al 45586. Non dimenticare, guarda sempre in alto. Radio Città Fujiko 103.1 FM. Caricamento di Panta 80 in corso. La procedura impiegherà solo pochi istanti. Velocità smodata! Via! E ben ritrovati qui su Radio Città Fujiko 103.1 in FM oppure su www.radiocittafujiko.it se ci state ascoltando dall'internet. Colui il quale vi sta parlando ovviamente non è il buon Panta ma il suo commilitone, se così mi posso autodefinire, Andrea. E anche quest'oggi siamo qui sulla Panta 80 Time Machine per un'oretta, un po' insomma andando zigzagando per le vie di questa playlist in essere. Una playlist solitamente, lo sapete ormai, quando ho io il pieno controllo della Panta 80 Time Machine la definisco una playlist schizofrenica. In questo caso è letteralmente in essere, cioè la costruiamo insieme. La costruiamo un pochettino insieme. Comunque, come state? Il buon Panta vi saluta e probabilmente arriverà in corsa. Noi nel frattempo vi diamo subito immediatamente gli estremi per poterci contattare se volete chiacchierare un pochettino con noi tramite SMS, WhatsApp, Telegram, piccioni viaggiatori, criceti, roboanti e quant'altro. Lo potete fare al 333 1809 494. Allora, solitamente sapete c'è un po' di anarchia qui a Panta 80, ma oggi voglio lanciare così un possibile argomento. Avete mai avuto, io spero per voi di no, però la casistica è talmente elevata che vabbè, avete mai avuto la disavventura in casa quando dovete fare dei lavori, vi affidate a qualcuno che vi dice tranquillo, ci penso io, tu prendi il materiale e tutto il resto, e poi al lavoro manuale, a montarti quello che devi montare, ci penso io, faccio tutto a modino. Ecco, poi improvvisamente casa tua inizia ad avere qualche spiffero di troppo perché i muri hanno dei buchi. Storie di vita vissuta anche abbastanza recentemente, e quindi insomma sono andato a trovare i miei in Abruzzo in questo fine settimana, sì, dai, facciamo un po' di radio verità, e hanno dovuto sostituire qualche porta all'interno dell'appartamento, insieme alle porte, che tra l'altro sono state montate in una maniera un pochettino, diciamo così, artistica, ecco, artistica, ci sono anche tante belle buchettini, groviere, un pochettino in questa, che non erano esattamente preventivate, ecco, ok l'arte, ok la creatività, ma i buchi nei muri anche no. Quindi partiamo da questa un pochettino, tra virgolette, di disgrazia architettonica, per chiedervi, cari amici di Radio Città Fujiko, anche voi avete avuto nel corso del tempo, purtroppo, diciamo, queste situazioni un po' off limits, e soprattutto voglio sapere da voi come l'avete gestita emotivamente e anche un pochettino, insomma, tentando di insultare il meno possibile quello che vi ha fatto quelle malefatte. Detto questo, e visto e considerato che, come potete intuire, sono abbastanza carico di energia, partiamo immediatamente, e vi ho selezionato, ve lo dico subito, il grande, il grandissimo, il boss, no, non è Bruce Springsteen, ma il mio boss personale, Motörhead. Mi pareva doveroso iniziare così, proprio a mitraglia, a mitragliatore, con il buon Lemmy, sempre sia lodato, insomma, un pochettino così a scaricare energia, energia positiva, ragazzi, energia positiva, positiva, qui su Radio Città Fujiko alle 21.09, signore e signori, come avete potuto intuire, siamo belli carichi, belli bellissimi, Comunque, andiamo avanti, proseguiamo in questa oretta con la scaletta in essere. Che bello creare insieme a voi. Io direi questo, signori e signori, nel frattempo che vediamo un pochettino anche il buon Panta, se si palesa o non si palesa, facciamo il Toto Panta, il Toto Scommesse, se si paleserà, si materializzerà stile Slimer o stile, insomma, entità divina qui negli studi di Radio Città Fujiko, oppure no? Secondo voi sì o no? Fatecelo sapere, fatecelo sapere. Io nel frattempo che vado un po' a togliermi un po' di nodi dalla lingua, continuiamo, proseguiamo e ci andiamo ad ascoltare quella che doveva essere nelle fasi iniziali della mia pensata della playlist stessa. L'intro invece no, è passata direttamente in seconda istanza. Questi sono i New Order e questa ovviamente è Blue Monday. In sella alla bersagliera. E l'intro di Fantozzi mi sembrava ideale. How does it feel? Blue Monday credo che sia la questa playlist, senza volerlo, sta diventando perfettamente cucita addosso a me, spero non troppo addosso a voi. Comunque io direi di proseguire, di continuare ad avere questa velocità di crociera che credo sia ottimale, anche perché sto vedendo un pochettino e in archivio abbiamo delle belle bombette, signori miei. Quindi proseguiamo, siamo sempre ovviamente negli anni 80, che ti voglio dire, ma per fortuna in questo caso, perché Garfield, volevo dire Axl Rose, in questo caso per fortuna era ancora in grado di cantare. Nessuno mi toglierà dalla testa il fatto che ora gli voglio bene perché si è ripulito, è diventato una personcina a modo, che, ma ragazzi, la voce non ce l'ha più, zero, nada, nisba. Ma in questo caso invece con Night Train ci andiamo a godere un bel po' di schitarrate. Look out! Night Train. Tra l'altro, i cari amici dei Guns N' Roses tanto dicono abbiamo un sacco di materiale per uscire con un nuovo album e tutto il resto, eccetera eccetera eccetera. Sì, lo dicono da 20 anni, ma ancora niente. Nonostante siano rientrati il buon Duff e Slash, ancora zero nada nisba. Non ditemi che quei singoli che sono usciti nel corso degli ultimi 2, 3, 4 anni sono roba nuova. Assolutamente no, era roba già pronta che poi è stata rimaneggiata nemmeno troppo secondo me e poi buttata in pasto al pubblico ludibrio. Nel frattempo, però, appunto, Duff se n'è uscito con un discreto album. Slash sta per uscire con un nuovo album, di cui in questi giorni è stato pubblicato il primo singolo, tra l'altro con la collaborazione di Brian Johnson, ed è un signor singolo, anche perché il Sir Brian canta in maniera leggermente diversa rispetto agli AC/DC. Nel senso, secondo me si trova più a suo agio, secondo me si è divertito anche di più a lavorare col buon Slash. Così, chicche musicale a parte, continuiamo. 21 e 21, qualcuno vi pensa, signori miei, vi pensa il buon Andrea, e continuiamo con questa sgasata un po' di hard rock anni 80 e andiamo con un classico ballatone dei Whitesnake, che vi ricordo essere andati ufficialmente in pensione. Ci andranno quest'anno? Vi faccio sapere subito dopo. Whitesnake, Here I Go Again. Yesterday, and I've made up my mind. Here I go again. Siamo tornati qui di nuovo. Esattamente esatto. Che cavolo di italiano sto pronunciando oggi? Ma va bene. Comunque salutiamo l'onnipresente, ti vogliamo un gran bene, Mauri di Dopamina, che dice un saluto Panti80. Bello, Panti80 mi piace, lo riutilizzerò, sappilo. E siete la prima boccata d'aria di questo osceno lunedì, ragazzo. Cioè ti abbraccio in maniera sconsiderata, guarda, uniti nell'oscenità del lunedì, proprio, dannazione, ma comunque Panto80 è anche un pochettino questo, speriamo sempre di darvi, di regalarvi una boccata di ossigeno nelle vostre giornate, soprattutto nei vostri inizi di settimana, perché l'iniziare, ricominciare una settimana è sempre un pochettino difficile. Nel frattempo, ridendo e scherzando, sono le 21:27, signori miei. Io quindi sapete che cosa faccio? Ci andiamo a sentire, per l'appunto, uniti nell'oscenità del lunedì. Ragazzi, cerchiamo di non piangere, quindi prima delle pubblicità, Cure con Boys Don't Cry. La musica è di tutti e per tutti. La scuola popolare di musica Ivan Illich è aperta a chi vuole suonare e cantare insieme agli altri, a chi non ha mai preso uno strumento in mano, a chi vuole diventare un musicista, a chi vuole improvvisare, a chi vuole ascoltare musica slegata dai generi, a chi vuole imparare divertendosi. Tutto il resto non importa. Scuola popolare Ivan Illich, nessuno escluso. Visita il sito www.spmii.it o chiama allo 051 35 77 53. Scopri la magia della stagione teatrale 2023-2024, Tre Teatri per Te, del Comune di San Giovanni in Persiceto. Grandi artisti, grandi spettacoli e grandi storie. Scegli tra il biglietto singolo o le varie formule di abbonamento. Informati allo 051 82 50 22 o manda una mail a biglietteriateatro@comunepersiceto.it. Tre Teatri per Te, che la magia abbia inizio. Venerdì 15 marzo al Teatro Fanin, Nuzzo e Di Biase in Delirio a due. Oh no! Mi sono entrati i ladri in casa! È già la seconda volta! Pensavo che la mia porta blindata fosse sicura. Mi hanno portato via tutto. Ma, signor Rossi, qui ci vuole un professionista serio. Chiami la BM Security di Bertozzi Marco. In tempi rapidissimi le sostituiranno le serrature e aggiorneranno il livello di sicurezza. Così avrà una casa più sicura. BM Security di Bertozzi Marco. Fabbri di famiglia a prezzi onesti. 346 708 20 65. Grazie signora Laura, lo chiamo subito. 346 708 20 65. Bollicine in Villa, un evento dedicato alle più grandi bollicine d'Italia, Francia e resto d'Europa. Oltre 3.000 bottiglie in degustazione, champagne, cremon, cava, spumanti italiani, ungheresi e austriaci, masterclass, prelibatezze gastronomiche e wine shop. Una due giorni di emozioni, contenuti, scambio di opinioni e nuove idee. Sabato 23 e domenica 24 marzo, dalle 10 alle 20, Villa Farsetti a Santa Maria di Sala, Venezia. Info su bollicineinvilla.it. Sono riuscita finalmente ad avviare la mia impresa. Ho seguito un corso di formazione che mi ha aperto nuove opportunità. Ho avuto supporto in un momento di difficoltà e ho ritrovato la fiducia. Se sei donna, hai tante opportunità per progettare il tuo presente. Scopri cosa stanno facendo le altre donne con il sostegno della tua regione su regioneer.it/8 marzo 2024. Si scrive donna, si legge comunità. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna. Non hai voglia o tempo di lavare e stendere? Ammorbidisci la tua giornata alla lavanderia Speed Queen di via Stoppato 31A. Lava e igienizza i tuoi capi con la tecnologia dell'ozono, con cicli di lavaggio più rapidi che a casa, e puoi lavare anche gli accessori e le cucce dei tuoi amici a quattro zampe, nella colonna a loro dedicata. Con la card e la nostra app avrai sempre degli sconti. Servizio di fatturazione per le aziende. Passa a trovarci in negozio e scarica la nostra app. Siamo a Corticella, in via Stoppato 31A. Inizia ora la seconda parte di Panta 80. Siamo rientrati subito, immediatamente. Mamma mia, signori e signori, questo lunedì, come diciamo spesso io e il buon Ale, questo lunedì è il più lunedì di tutti gli altri lunedì, ma mettete al cubo. Comunque siamo sempre qui su Radio Città Fujiko 103.1 in FM, oppure se volete ci potete ascoltare anche tramite streaming su www.radiocittafujiko.it. c'è un bel pulsantone dove c'è scritto ascolta la diretta, o se siete un attimino più tecnologici potete scaricare tranquillamente l'app di Radio Città Fujiko, sia se avete un dispositivo Android, sia se avete un iPhone. Quindi siamo dappertutto, siamo rintracciabili ovunque, everywhere. Nel frattempo saluto anche il buon Abs, che ci delizia insomma con dei complimenti, e io mi imbarazzo e arrossisco. Voi non potete vedere, ma immaginatemi con le guanciottine arrossate per insomma, grazie, i complimenti fanno sempre piacere, mi mettono un pochettino in imbarazzo perché sono comunque un ragazzo fortunato, ma anche e soprattutto un ragazzo abbastanza timido. A parte questa super cazzola immensa che ho appena esternato, direi di proseguire con la nostra playlist itinerante qui con la Pantottanta Time Machine. E sapete che cosa vi riciccio fuori? Il buon, sempre lodato zio Neil Young, perché Rockin' in the Free World io l'associo sempre agli anni 90, sarà per i Pearl Jam qualcosa, non lo so, in realtà è degli anni 80, 1989, siamo proprio sul finire della decade, ma io l'avrei messa anche se l'avesse pubblicata nel 2010, chi se ne frega, chi se ne frega col K, attenzione, attenzione, Rock in the Free World, Neil Young ci introduce al giro di boa di Pant 80. People sleeping in your shoes. There's a warning sign. Allora, ammetto una cosa. Rockin' in the Free World. Sì, io già quando ero più giovincello sapevo che era di Neil Young, ma sapete quando vi ripetono costantemente una cosa che voi non avete mai visto, mai ascoltato? Che ecco, avevo creato in me un falso ricordo, tant'è che quando sentii l'originale, per l'appunto questa, per la prima volta, avrò avuto 23 anni, ecco sì, 23 anni, una cosa del genere, sono rimasto scioccato, perché la mia mente in realtà aveva processato la versione che i Pearl Jam facevano di Rock in the Free World nei primi anni 90. Soprattutto c'è un live, non mi ricordo, Pink Pop 92, dove c'è Eddie Vedder che si lancia nel pubblico ma arrampicandosi sull'americana, una cosa pazzesca, allucinante. Tutto quel live dei Pearl Jam è allucinante. E quindi niente, così per anni e anni credevo che Rock in the Free World avesse più o meno quell'attitudine, quel mood, quindi una prima parte molto lenta e poi invece continuava, sparava sempre più veloce, eccetera eccetera. Invece no, è così. Niente, volevo condividere con voi quella che è stata un mio falso ricordo, che poi è diventata consapevolezza. Capita anche a voi? Ditemelo se volete al 333-1809-494 in questo lunedì, che già io, il buon Mauri e anche altri ci siamo abbracciati così, radiofonicamente parlando, un po' per farci forza in questo lunedì che, da quello che ho capito, a tutti, però ad alcuna parte, una parte dell'utenza di Radio Città Fujiko, poteva iniziare meglio, ecco. Ma noi invece proseguiamo e ho tirato il freno a mano della Panta 80 Time Machine, ho fatto un 360 che non ci ho capito più niente, e infatti cambiamo completamente registro, perché vi faccio ascoltare un qualcosa che è un po' diverso rispetto al solito qui a Panta 80, ovvero sia caliamo un pochettino di giri, ci rilassiamo un attimino di più e vi ciccio fuori, direttamente dagli anni 80, una giovanissima Kylie Minogue. Sì, avete capito bene, Kylie Minogue, I Should Be So Lucy. Lucky, no Lucy. Lucky. Vai con i Fuso! I'm not afraid to dite la verità, dopo tutta questa bordata di chitarre, assoli, cazzi e mazzi e tutto il resto, eccetera, eccetera, una fucilata, una cannonata 100% pop vi ha destabilizzato? Ditelo, ditelo tranquillamente, potete fare pubblica confessione, perché io sono il primo a essere destabilizzato dalla mia stessa scelta in scaletta. Però oh ragazzi, detta come va detta, e ve lo dice un rocchettaro metallaro proprio, cioè io non ho sangue, ho Galak al posto del sangue delle vene, ma subito dopo c'è metallo e ferro, un po' arrugginito, però va bene, insomma. Il pop, quando è fatto bene, con tutti i crismi del caso, e soprattutto se c'è un interprete con un certo carisma naturale, costruito, quello che volete, però insomma, cioè che dà una certa carica al pezzo stesso, uno deve dire oggettivamente, funziona, chapeau, tanto di cappello. E quindi niente, tra l'altro Kylie Minogue, stavo vedendo un po' che qualche giorno fa ha improvvisato, diciamo così, un duetto con Madonna, attenzione, cantando I Will Survive. Sapete che ha detto, poi subito sono incalzati i giornalisti a dire, ma quindi ci sarà una futura collaborazione tra voi due? Kylie Minogue, con sempre il suo fare serafico, angelico e molto diplomatico, ha detto, bah, chi lo sa, vedremo in futuro, non lo so, non posso dirvi niente. Quindi quasi sicuramente nel prossimo album di Kylie Minogue ci sarà una collaborazione con Madonna, perché solitamente vanno così le cose, ma va benissimo, così come va benissimo la crociera, la crociera? No, siamo sulla Panta 80 Time Machine, non abbiamo ancora messo i gommoni al posto delle gomme qui sull'autovettura, e quindi invece la velocità di crociera, signori e signori. Proseguiamo con invece un classico di Panta 80, ovvero sia sono i Queen con I Want It All. Questa volta I want it all. L'ho detto bene. Just an alley creeper, light on his feet. A young fighter screaming, with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't much I'm asking, I heard him say. Gotta find me a future, move out of my way. I want it all. il bello anche di essere qui da quest'altra parte sul mixer, non tanto sul mixer, non mi pensate appoggiato sul mixer, però vabbè, insomma, avete capito, davanti al mixer con delle buone cuffie e anche delle buone casse, perché riusciamo ad ascoltarci anche così, è rendersi conto che l'assolo di I Want It All dei Queen sfrutta al 100% la stereofonia, perché rimbalza da una parte all'altra, ed è una delle cose che magari ascoltandola, purtroppo, per fortuna, a seconda dei punti di vista, nel senso, per fortuna che lo puoi ascoltare dappertutto dal cellulare, per esempio, sono delle finezze che ti perdi, e quindi quando le riscopri poi rimani felicemente sorpreso, ecco, così vi volevo dare un tocco di gioia personale in questo fine trasmissione, perché sono le 21:55, signori e signori. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati in nostra compagnia, e spero altrettanto, insomma, che abbiamo fatto un buon lavoro, un buon servizio di quello che può essere un'oretta scansonata per alleviare un po' le rotture de balle, diciamolo direttamente, di ciascuno di noi e in questo inizio settimana un po' particolare. Noi, faccio anche le veci del buon Panta, vi salutiamo, vi lasciamo nelle sapienti mani dei ragazzi di Balle di Fendi, e noi ci risentiamo lunedì prossimo, sempre dalle 21 più o meno in poi, fino alle 22, e finiamo con, allora ragazzi, un tocco di grezzata per l'intro. Vi lascio con i Deep Purple, Highway Star, ma con un intro un po' cafonetta che però qualcuno potrà apprezzare. Ciao ragazzi e alla prossima. Va quello lì, va. Allora, spostati Ciccio, allora! Ho capito, stai calmo. Non gli fai fare. Ciccio! Ho capito, ma rilassati! E sei aggressivo in macchina, Giacomo? Sì, ma alle 6 del mattino sei già così incazzato. Sì, devi essere così. A mezzogiorno che cosa fai? Tiri le bombe a mano tu? Le ho preparate lì nel baule. Ero io sulla 14 questo pomeriggio.